Ieri è stata una giornata di grande mobilitazione sindacale in tutta la Francia. Alla base di questo movimento c'è l'opposizione alla riforma delle pensioni del governo. Una riforma delle pensioni che, vista dall'Italia, appare molto più moderata di quella che abbiamo vissuto noi negli anni passati. Se si pensa alla riforma, Monti-Fornero, che aumentò l'età pensionabile dall'oggi al domani da, 62 a 67 anni, questa prevede solo un aumento a 64. Ciò nonostante, questo ha provocato una forte posizione in tutto il paese. Tutti i sondaggi mostrano una popolazione francese ampiamente contraria all'aumento dell'età pensionabile e una forte risposta sindacale. Per la prima volta dagli scioperi del 2010-2011, ancora una volta anche allora sulle pensioni, tutto il mondo sindacale francese, dai sindacati più moderati e centristi fino ai sindacati di base, passando per la CGT e la sinistra sindacale, diciamo, ieri si sono trovati tutti in piazza. Se si guarda all'ampiezza delle manifestazioni, questa è andata ben oltre alle aspettative dei sindacati, soprattutto tenuto conto che ieri era la prima giornata di mobilitazione, che è sempre quella più difficile e quella che ha una partecipazione inferiore. Le persone vengono mobilitate, diciamo, con un effetto un po' a palla di neve. All'inizio questa è piccola, poi rotolando le manifestazioni diventano più grandi. Ieri è stata una grandissima giornata di mobilitazione. Si parla di 400.000 persone in sciopero a Parigi ed effettivamente avendo partecipato al corteo, devo ammettere che era veramente molto grande, tanto grande che sebbene il percorso scelto fosse quello delle grandi occasioni con grandi viali e grandi piazze, il corteo, diciamo, durante lo svolgimento è stato diviso in due parti perché il percorso non bastava a tenerlo tutto, ma oltre 400.000 di Parigi, con centinaia di pullman da tutta la provincia verso la città, ci sono state grandi manifestazioni nel resto della Francia, non solo nelle grandi città, da cui ci si aspettano sempre dei grandi numeri, Marsiglia, Lione, Tolosa, ma anche piccole città come Rennes in Bretagna o altre nel paese hanno visto una fortissima partecipazione. Questa è solo una prima giornata, una prima risposta del movimento sindacale alla riforma. I sindacati nazionali, le confederazioni sindacali nazionali si sono riunite ieri, subito dopo lo sciopero, e hanno previsto altri momenti di mobilitazione, una per la settimana prossima, quando la riforma sarà discussa in Consiglio dei Ministri, e una nuova giornata di sciopero per il 31 di gennaio. Queste manifestazioni sulle riforme delle pensioni però rappresentano qualcosa che va al di là. Sicuramente il tema delle pensioni, come quello delle 35 ore di lavoro settimanali, sono qualcosa di quasi culturale e di molto sentito in Francia, ma in questo caso la risposta e la partecipazione sindacale di tante persone, se si leggono le interviste fatte anche dai giornali, che non hanno mai partecipato a scioperi e manifestazioni, ecco, quello che viene da pensare è che queste manifestazioni coagulino uno scontento più generale. Molto probabilmente le negoziazioni annuali che si fanno nelle aziende intorno a novembre-dicembre per adeguare i salari e le condizioni di lavoro, diciamo, nelle aziende francesi sono state mediamente inferiori all'inflazione, quindi c'è stato una perdita di potere di acquisto che si somma a quelle che si sono avute durante la pandemia e anche negli anni precedenti, e queste mobilitazioni sulle pensioni servono un po' a coagulare questo scontento e a ricominciare quello che secondo me sarà un nuovo ciclo di lotte. Riprendiamo un po' da un certo punto di vista dove ce le avevamo lasciati. 2019-2020 ci sono state grandi mobilitazioni, ancora una volta sul tema delle pensioni, interrotte dalla pandemia. In un certo senso i sindacati hanno pareggiato, non hanno vinto, non ha vinto il governo, la pandemia ha un po' congelato le cose. Oggi il governo ricomincia con la riforma delle pensioni e c'è nuovamente una risposta sindacale molto maggiore di quella precedente. Il fatto che nell'intersindacale siano presenti tutti i sindacati francesi, tutti i 7-8 principali, i sindacati degli studenti e tantissime altre associazioni, fa pensare che ci sia la possibilità effettivamente che si arrivi a un blocco del paese o a quelle forme di lotta che sono tipiche, diciamo, della Francia e che puntano effettivamente a mandare un segnale molto forte e che quindi nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, la lotta sociale in Francia si intensificherà. Ci sono anche forme di lotta, sono conosciute, che sono già state effettuate in passato. Una particolarmente interessante è che la CGT, il sindacato, diciamo, di sinistra francese dei lavoratori elettrici, sta staccando la luce a quei deputati, a quei senatori che voteranno la riforma. Ecco, questa lotta simbolica è abbastanza inusuale, penso che possa dare, diciamo, la cifra di queste lotte e di queste mobilitazioni in Francia.